e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Cuore Denari. Prima di sederci sui banchi della Scuola di Risparmio insieme a Deborah e con i suoi esperti, parliamo di pagelle, perché è il loro momento. Se è arrivata anche a casa vostra, chiamateci, parleremo di voti, di impegno, di metodo di studio. Lo faremo con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta che si metterà nei panni di un genitore alle prese con una pagella a rischio, e con Matteo Salvo nei panni di un ragazzo che vuole mettere il turbo alla sua mente e trovare la rotta verso risultati straordinari, perché studiare può essere un gioco da ragazzi. Ma vi anticipo che parleremo anche di bullismo. A volte anche un profitto scolastico particolarmente buono può scatenare l'interesse del bullo, ma in alcuni casi dietro a un insuccesso scolastico potrebbe nascondersi anche il disagio di chi è vittima di bullismo ma non osa confessarlo. C'è una bella iniziativa di cui vogliamo parlarvi, che è partita proprio dai ragazzi di una scuola di Lecce, che hanno deciso di dire basta al bullismo, dando vita ad un movimento che sta diventando sempre più virale. Un'iniziativa che Cuore Denari promuove a pieni voti. A proposito di voti, allora, qual è quello che ha segnato di più la vostra carriera scolastica, quello che non scorderete mai, che ha rappresentato un punto di partenza, di arrivo, una svolta? E qual è o quali sono i voti della pagella di vostro figlio che vi stanno facendo preoccupare, quelli che non siete disposti a giustificare? Vi aspetto, naturalmente apriamo i nostri microfoni alle vostre storie, alle vostre considerazioni. Non vi daremo voti, la promozione è assicurata, vero Deborah? Assolutamente sì. E allora poi faremo nella seconda parte del nostro programma un volo abbastanza radicale, appunto perché approderemo alla nostra scuola di risparmio. Sempre il mondo scolastico sarà oggetto del nostro interesse, ma con un taglio ovviamente diverso, che è quello del giovedì, ed è quello di investire informatico. Noi ci sarà oggi Lorenzo Alfieri, di un grande gruppo finanziario internazionale, JP Morgan. Naturalmente commenteremo tutti i fatti del momento dal punto di vista finanziario. Le borse in questi giorni ci sembrano più tranquille, ci stanno dando un po' di tregua, più 0,7% anche stamattina Milano. Il tema su cui ruota l'attenzione generale è il petrolio, che è risalito un po' perché c'è questo accordo internazionale fra alcuni dei maggiori paesi produttori per congelare al momento i tetti e produttivi e di conseguenza i prezzi. Faremo poi un piccolo giro del mondo, andremo negli Stati Uniti, naturalmente passeremo anche in Cina attraverso le vostre telefonate 800 24 00 24 per le vostre curiosità sui temi finanziari del momento. Ci risentiamo intorno alle 11:20. Vai male a scuola? A me puoi dire tempo di pagelle, tempo di riflessioni, bilanci, considerazioni, ma anche di promesse, di impegni, di castighi e punizioni. Che pagella ha portato a casa vostro figlio? Che clima si respira da voi in questi giorni? Fateci entrare nelle vostre case. Noi intanto entriamo in casa di Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che è in linea con noi, che di pagelle ne ha ricevute ben 4. Alberto, ciao e bentornato. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno. Allora Alberto, quattro pagelle. Io devo dire che quattro pagelle di casa, ma poi proprio la domanda, la pagella è anche una domanda che faccio a quasi tutti i genitori che magari sto aiutando in questo periodo col mio lavoro di terapeuta, e quindi ho tante pagelle sotto gli occhi e devo dire che più o meno le cose sono andate abbastanza come ci aspettavamo. A casa nostra c'è stato da ridiscutere, ridefinire su alcuni passaggi dei quali eravamo già stati informati anche dai rispettivi insegnanti dei nostri figli, e la cosa che mi ha colpito invece è che effettivamente, lavorando con qualche genitore, mi è stato come restituito che nella pagella c'erano cose che non si sarebbero aspettati di trovare, cioè come se fosse proprio una sorpresa. Esatto, una sorpresa che è caduta dal cielo, nel bene e nel male. Tra l'altro Alberto ha quattro pagelle che corrispondono a ogni scuola di ordine e grado, dall'elementare al liceo, quindi sei assolutamente preparato. Io ho veramente un piccolo laboratorio su cui potete fare ricerca. Allora, comunque, quel che fate è fatto, non resta che imparare la lezione, nel caso è recuperare, perché la posta in gioco è alta, perché se le insufficienze del primo quadrimestre rimangono anche alla fine del secondo, aprono inevitabilmente la strada a due due alternative, no? Si ripete l'anno oppure si è rimandati a settembre, quindi l'estate è bruciata. Meglio quindi riprendere il ritmo, trovare un metodo di studio, e noi, ve lo anticipo, ci faremo dare una mano da Matteo Salvo, fondatore e direttore generale della scuola di apprendimento Mindful Performance, che è il primo istruttore certificato per insegnare le mappe mentali e campione di memoria. Quindi vi ho descritto rapidamente il profilo per dirvi: se avete già chiaro quali sono le difficoltà che vostro figlio incontra, chiamateci, prenotate il vostro intervento, esponete il vostro caso al nostro esperto, chissà che sappia darvi quel consiglio capace magari di sbloccare la situazione. Intanto, Alberto, la pagella in realtà non dovrebbe riservare grandi sorprese, no? Ma come tu ci hai raccontato, anche perché la speranza è sempre l'ultima a morire, fino all'ultimo si spera che con un'interrogazione, con un compito, il ragazzo recuperi. Non sempre è così, e a volte questo non funziona, così all'attesa segue la delusione. Allora io credo che sarebbe interessante raccogliere e interpretare le emozioni che ha scatenato l'arrivo della pagella a casa. Sarebbe forse uno spaccato interessante che forse potrebbe fornire anche degli spunti di riflessione sulla gestione delle aspettative che i genitori hanno nei confronti del figlio, in questo caso del profitto scolastico, che è un indicatore ricco di significati che vanno ben oltre la promozione alla bocciatura. Che ne dici, Alberto? Ma sì, direi che, come hai detto tu, magari iniziamo dalla sorpresa, cioè se sono sorpreso di quello che c'è sulla pagella del primo quadrimestre di mio figlio, ecco, c'è qualche passaggio che mi riguarda me. Non riguarda soltanto lui, perché come genitore probabilmente io non ho costruito uno sguardo, un'attenzione a quello che si stava verificando, e quindi se rimango sorpreso da quello che trovo nella pagella è che io non ho messo a fuoco cosa stava succedendo nel percorso scolastico di mio figlio. Quindi questa sorpresa va in qualche modo metabolizzata, analizzata insieme al ragazzo e poi probabilmente anche riverificata con i suoi docenti, e mi potrei dare come progetto del secondo quadrimestre quello di tenere probabilmente traccia in modo migliore di quello che gli sta succedendo. Ci sono poi una serie di emozioni che probabilmente sono proprio naturali, cioè se la pagella è andata male può darsi che ci sentiamo delusi e restituiamo al figlio magari proprio un senso di sofferenza nostra che non gli fa bene. Cioè quello che serve è sentire e far sentire a un figlio che noi siamo gli adulti, il nostro ruolo non è quello di rimanere delusi dalle sue pagelle, ma di sostenere il suo percorso di crescita, e quindi individuare subito che cosa cominciamo a fare da oggi in poi, che cosa c'è nei prossimi mesi che ci permette di costruire un'alleanza sul recupero della situazione che è andata male. Direi che poi la cosa forse più frequente è che decisamente non va bene per noi genitori, non va bene a un figlio, che noi magari immediatamente tiriamo su le ci facciamo scoppiare un vulcano, cioè ci mettiamo a gridare, facciamo gli arrabbiati, urliamo, in qualche modo entriamo in una zona di conflitto dove scarichiamo un'emozione che è quella della rabbia, che non serve assolutamente a niente, per il semplice motivo che se noi siamo nell'emozione della rabbia è come se mettessimo in piedi un combattimento, una guerra, io divento un nemico per mio figlio, mentre bisogna essere fermi, seri, autorevoli, competenti, dire qui abbiamo un problema, e non è la rabbia quella che, non è la potenza della rabbia quella che dobbiamo mettere in gioco, ma è la competenza dell'adultità che deve far capire a nostro figlio che analizzeremo molto bene la situazione e insieme a lui dobbiamo fare proprio un contratto per uscire da questa zona di difficoltà. Prima di andare a dare la linea al traffico, Debora ha segnalato un messaggio che ci ha colpito un po'. Abbiamo letto, ci siamo guardati con mamma mia, con una stretta al cuore, sì. Perché a proposito del tema pagelle, aspettative dei genitori e reazioni alla lettura, Federico da Como ci racconta quanto accaduto in casa sua, dove sua cognata scrive così: davanti ad una pagella elementare con tutti i 10 e un 7 in lettura ha sgridato la bambina, tanto che questa si è messa a piangere disperata e le ha detto: la mamma si aspetta tanto da te. Lui naturalmente ci racconta di essere rimasto atterrito senza sapere cosa fare. Alberto, questo è Federico. Direi che questo è proprio un messaggio che contiene un po' la summa di tutte le cose da non fare, cioè stiamo comunicando a un figlio che ha conseguito grandi successi, che la nostra attenzione selettiva si concentra soltanto sul piccolo pezzetto in cui apparentemente non ha funzionato bene come in tutti gli altri fronti, e questo significa proprio restituire che noi lo vogliamo perfetto e che lui non si può permettere nessun genere di errore, e questo automaticamente getta nel territorio, nel percorso dell'ansia e della fatica. Il secondo aspetto è che la mamma sta fondamentalmente dicendo alla bambina: lo devi fare per me. E questo invece non serve in nessun modo a un figlio, cioè noi dobbiamo sostenere il loro successo scolastico e la loro motivazione, non perché così fanno contenti noi, ma proprio perché piano piano in questa fatica, in questo successo che vanno incontrando, capiscono che il loro sapere e il loro saper fare li renderà poi persone competenti e sapranno chi sono grazie al loro successo. Allora, Scusa Alberto, volevo dare la linea pensavo che tu avessi terminato, volevo dare la linea alle informazioni sul traffico, ma ritorniamo subito dopo con i nostri ascoltatori che ci stanno chiamando all'800 24 00 24. Naturalmente invitiamo anche gli insegnanti. Ci scrive un'ascoltatrice su WhatsApp, leggerò poi il suo messaggio tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Cuore e Denari. Ci dicevano, insistevano di studiare, che da grandi ci sarebbe stato utile sapere le cose che a scuola andavamo a imparare, che un giorno avremmo... Allora, le pagelle sono arrivate, leggiamo le pagelle insieme ad Alberto Pellai per capire qualcosa di più di noi come genitori e di nostro figlio. La pagella è sempre un momento di confronto in famiglia, a volte di scontro, le insufficienze saltano agli occhi, sicuramente più delle sufficienze, ma è importante sforzarsi a cercare di avere una visione di insieme. Leggo anche il messaggio di Maria, che salutiamo, che ci dice: è ottimo che ci sia qualcuno che si mette nei panni dei genitori, saresti tu Alberto. Bene anche che ci sia chi si mette nei panni dell'alunno, e invitiamo gli ascoltatori a ricordare quando andavano a scuola. Di alunni al momento non ne abbiamo in linea. Perché non ha anche qualcuno che si metta nei panni dell'insegnante? Giusta osservazione, Maria, che ci scrive, che è un insegnante che passa molte notti insonni nel periodo dei voti in pagella. Quindi invitiamo Maria, se vuole, a chiamarci all'800 24 00 24, così mettiamo tutti gli attori insieme. Alberto, leggiamo insieme. Quali informazioni può darci la pagella? Tante materie, tanti voti, ogni voto parla. Penso ad esempio a quello di condotta. Tu che cosa avevi, ad esempio? In condotta io ero uno sul 9, di solito ero lì, in quella zona, tranquillo, non troppo su. Il voto di condotta secondo me è un voto importantissimo, è una, per esempio, delle prime cose che attenzioniamo anche noi genitori con i nostri figli, perché ci racconta un po' non quello che sa nostro figlio, ma quello che è nelle relazioni di classe, quello che è nelle relazioni con i docenti che si prendono cura della sua formazione. È un voto che in realtà i docenti costruiscono su una serie molto complessa di indicatori che sono legati al coinvolgimento, all'interesse, alla partecipazione. È un voto che ci racconta molto di come nostro figlio va fuori, no? Si gestisce all'esterno, quando è chiamato a svolgere dei compiti, ma anche nelle relazioni con i suoi compagni. Molti genitori un po' lo sottostimano, no? Siccome non è legato a una materia di studio, spesso magari anche con un voto di condotta un po' problematico dicono: vabbè, ma quella è la però condotta. Però magari a 7 di matematica, invece tu partiresti. Voi da che voto partite? Sì. Perché le materie, non vogliamo dire che ci sono delle materie più importanti di altre, ma in ogni famiglia, no, l'occhio cade su alcune più che su altre. Michela da Trento, Mariuccia da Varese. Michela, buongiorno. Buongiorno, grazie per potermi fare intervenire. Dunque, io, la mia domanda era semplice: come fai a far capire a dei ragazzi di 15 anni, 16 anni, che devono, come dire, assumere una responsabilità nei confronti della scuola? Perché è difficile parlare con questi ragazzi, è molto difficile, nel senso che sono ragazzi, lo sappiamo tutti, viziati, che siano figli unici o no, per un determinato, è molto difficile. Io ho provato, anche come dicevate voi, a immedesimarmi e ritornare nei tempi della scuola, però la nostra scuola era diversa, molto diversa rispetto a questa. Punto di domanda. Anche, ecco. Ha ragione Michela, anche come? Perché noi eravamo dall'altra parte. Allora, questa secondo me cambia molto. Comunque, Alberto, beh, Michela, si pone una domanda che ci siamo posti tutti: come fare a entrare dentro quella zucca e mettergli, no, qualche idea per fargli andare bene? Ma in realtà è effettivamente è molto faticoso entrare dentro quella zucca, perché a 15-16 anni poi dovrebbero cominciare proprio a strutturare bene la loro zucca da soli. Io direi che le neuroscienze ci dicono che per i figli in quella fascia d'età è davvero molto molto faticoso ancora autoregolarsi e motivarsi alla fatica e all'impegno. Per cui come genitore, come ruolo di genitore, farei un contratto chiaro. E cioè direi: come mi aspetto, cosa mi aspetto di vedere quando tu sei nell'ora o nelle due ore del tuo studio quotidiano? E quindi lo aiuterei a fare pulizia sul suo tavolo di studio, via tutte le tecnologie, via i gruppi WhatsApp, in modo che l'attenzione e la concentrazione rimangano focalizzate sull'obiettivo. E poi magari per ragazzi che sono particolarmente affaticati, dare il consiglio ai genitori di sostenere i figli magari a fare sessioni di 20 minuti interrotte poi da 10 minuti, dove è come dire prendono aria, escono dalla prigione del libro e poi si ributtano, quindi spezzettando a blocchi di 20 minuti per esempio possono rimanere più attenti e concentrati, rimanere meno affaticati, perché tante volte stanno magari 3 ore in camera loro apparentemente su un libro, ma la testa è in un'infinità di altri territori. Abbiamo tempo per sentire Mariuccia che ci chiama da Varese. Intanto vi anticipo che vorremmo darvi l'opportunità di portare il vostro caso a Matteo Salvo, quindi se vostro figlio fa fatica a memorizzare, se passa tante ore sui libri e poi non rende, se va nel pallone quando, no, deve affrontare un compito in classe, mettiamo alla prova il nostro esperto 800 24 00 24. Abbiamo anticipato che spesso il buon profitto può anche essere un'occasione, un modo per attirare l'attenzione di un bullo. Ne parleremo anche di bullismo, così come di fronte o dietro alla sofferenza, alla fatica di un ragazzo potrebbe nascondersi proprio il disagio della vittima di un bullo che non riesce ancora a raccontare questo suo disagio a casa. Non vuole essere una giustificazione, ma nella scuola esiste anche questo fenomeno. Vogliamo parlarne con Alberto Pellai, che a questo ha dedicato libri, conferenze e quindi può sicuramente darci una mano. Questo per anticiparvi temi di cui tratteremo nella seconda parte della trasmissione, prima di sederci sui banchi della scuola di risparmio. Intanto abbiamo Mariuccia che ci espone rapidamente il suo caso e poi andiamo al GR insieme ad Alberto Pellai. Mariuccia. Buongiorno, senta, io sono una nonna angosciata dai nipoti. Oh mamma mia. Sì, ho avuto 4 figli, sono cresciuti senza papà, mai problemi di studi, tutti laureati. Questi 2 nipoti, una ha ripetuto la terza liceo e quest'anno sembra che sia vivo. Il fratello a 16 anni, vengono da una separazione di circa 3 anni fa. Questo ragazzo è stato messo in un istituto privato e fa la ragioneria. Abbiamo riscontrato un deficit di attenzione non altissimo e viene curato e seguito dallo psichiatra mensilmente. La mamma purtroppo ha un lavoro impegnatissimo, viaggia, il papà Mariuccia, la situazione è molto complicata. Allora, Alberto Pellai si occuperà sicuramente di lei e del suo caso, ma subito dopo il GR. Intanto vi aspettiamo, a tra poco. Cuore e denari. Sono Sono la mamma di Nina, 4 anni e mezzo, è una sindrome genetica ad oggi sconosciuta. Nonostante la sorpresa avuta alla nascita, non ci siamo persi d'animo e ci siamo subito rimboccati le maniche, con ottimismo ed anche un pizzico di ironia. Ad oggi Nina ha recuperato moltissimo dal punto di vista motorio, anche se permangono tanti problemi medici che stiamo affrontando man mano. Quando si parla di malattie rare, le difficoltà sono tante, ancora di più quando la diagnosi è senza un nome e le uniche speranze sono affidate alla ricerca. Ci siamo spesso sentiti abbandonati dal punto di vista medico e anche burocratico. Quella che state ascoltando è la voce di Isabella, la mamma di Nina, e questa è la storia di oggi di Più Unici che Rari. La versione integrale la potete trovare sul nostro sito, sulla pagina avete anche la possibilità di lasciare il vostro commento, la vostra opinione. Insomma, cerchiamo insieme di fare rete con Telethon. Fino al 29 febbraio daremo voce a chi ha visto cambiare la sua vita per una patologia rara, a volte dal nome impronunciabile, ancora una malattia senza diagnosi. Magari anche daremo naturalmente voce anche ai ricercatori, ma vogliamo condividere con queste famiglie una quotidianità. Ciascuno di noi può dare il proprio contributo. Ci teniamo molto, dateci una mano. Intanto noi torniamo al tema di oggi. Prima di sederci sul banco della Scuola di Risparmio, in linea con noi abbiamo il piacere di avere Alberto Pellai. Alberto, volevo chiederti prima di occuparci del caso della nonna disperata, una situazione abbastanza complessa che poi ci riassumerai brevemente. Nel tuo libro Girl Revolution, che tra l'altro è già diventato un bestseller, chiudo parentesi, si parla, e sono contenta perché noi, Deborah, ne abbiamo parlato quando era appena nato, il primo giorno. In anteprima mondiale, direi. Allora, si parla anche di ragazze, ma anche di successo scolastico. Ci sono delle differenze di genere nel modo di affrontare lo studio, la scuola e anche il successo, l'insuccesso scolastico? Qual è la tua esperienza? E soprattutto anche, ci sono le neuroscienze, dicono qualcosa? Ma in realtà effettivamente in questo momento le ragazze stanno performando meglio dei maschi a scuola, pur vivendo nello stesso mondo e con gli stessi programmi da studiare. Forse il cervello delle ragazze ha la capacità di riuscire a focalizzare un po' meglio l'attenzione, di essere meno preso nel meccanismo. Per esempio, i ragazzi perdono tantissimo tempo con i videogiochi e quindi li portano in un territorio diverso proprio da quello del tavolo di studio. Le ragazze sono più distratte magari dai social o da WhatsApp, però sono più vicine al libro che devono studiare. E l'altro aspetto è che hanno qualche meccanismo di integrazione emotiva cognitiva in più, hanno proprio più reti, non più neuroni, ma più reti neuronali, più integrazione, quindi questo un po' facilita poi per loro i compiti dell'attenzione dello studio. Allora Alberto, prima del nostro GR ci ha chiamato una nonna disperata per la situazione familiare, i nipoti non hanno voglia di studiare, hanno anche una situazione un po' complessa. Io credo che se tu sei d'accordo possiamo suggerire ai nostri ascoltatori, per avere delle risposte mirate, di scriverci sul nostro profilo Facebook la loro storia, la richiesta, e tu Alberto ti facciamo lavorare anche a casa e magari nei prossimi giorni puoi dare loro una risposta. Più mirata rispetto a quella che potresti dare, dato che poi le storie sono molto particolari. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, e in linea con noi abbiamo Gianluca da Roma con una richiesta. Buongiorno. Buongiorno Gianluca. Dunque, sì, la mia richiesta è questa. Io sto affrontando con mio figlio l'università, sì, e ha delle grandi difficoltà nel fare gli esami, soprattutto gli scritti. Allora, rispetto a quello che diceva il professor Pellai, appunto, è molto coinvolto con, per esempio, i videogiochi. Quello un po'. Piacciono a tutti. Piacciono a tutti, anche però sono una disperazione. Lo so. Allora, Gianluca è in linea con noi. Abbiamo il piacere di avere, l'abbiamo anticipato, Matteo Salvo, che è fondatore e direttore generale della Scuola di Apprendimento Mind Performance, primo istruttore certificato per insegnare le mappe mentali e campione di memoria. Matteo, ciao, bentornato. Eccoci, ciao. Matteo. Ciao a tutti. Allora, abbiamo bisogno di te, ti mettiamo subito alla prova. Perché studiare può essere un gioco da ragazzi. E intanto potresti dare un'indicazione al papà che ha chiamato per il suo ragazzo? Siamo già all'università, ma insomma il problema possono incontrarlo anche i ragazzi del liceo, anche alle medie. Certo, il problema non è una mancanza di interesse, ma è una mancanza di metodo. Infatti molte persone che pensano che i figli abbiano difficoltà a rimanere concentrati dopo cadono di fronte al fatto che i figli riescono a stare per ore davanti a un videogioco senza una minima interruzione. Questo perché il videogioco coinvolge e ti porta in uno stato mentale dove richiede tutta la tua attenzione per poter passare al livello successivo. Per poter fare la stessa cosa sui libri è fondamentale darsi un obiettivo, darsi un tempo, un obiettivo del tipo per i prossimi 40 minuti devo finire due esercizi, in modo che la mente sappia la direzione dove andare, così come succede in un videogioco, e possiamo dare tutto il meglio per riuscire a rimanere coinvolti. Matteo, tu hai una laurea in ingegneria e sei il primo istruttore certificato per insegnare le mappe mentali, quindi direi che di ore di studio ne hai macinate tante, ma secondo te conta è un problema di conta di più la talento, tenacia, metodo, interesse? Quali sono gli ingredienti per fare centro e quindi raggiungere attraverso lo studio e l'impegno i risultati richiesti e sperati? Certo, il metodo è alla base, perché io mi sono avvicinato a queste tecniche perché in ingegneria non riuscivo ad andare avanti, avevo sostenuto soltanto sette esami nell'arco di 3 anni dopo la maturità classica, avevo avuto molta molta difficoltà e dopo mi sono chiesto: ma è possibile che non esista un metodo? C'è un metodo per ogni cosa, e notavo come nello sport il metodo facesse fare la differenza, non era il talento, era proprio il metodo di allenamento quello che mi faceva fare la differenza. La persona più metodica otteneva più risultato. Da lì mi sono messo a cercare, ho scoperto che c'erano i campionati mondiali di memoria, Tony Buzan, le mappe mentali, e da lì c'è un universo che mi ha permesso dopo di preparare davvero 4 esami nell'arco di 2 mesi con il vecchio ordinamento, ma quello che era cambiato era il metodo, non le ore di studio. Infatti anche un ascoltatore ci manda un WhatsApp e ci scrive: io insegno in università e il problema è il metodo. Allora facciamo così, abbiamo 3 minuti prima di andare a sederci ai banchi della scuola di risparmio, quindi anche lì ci vuole memoria, metodo, talento e quant'altro. Allora questa è una prova, regalare agli ascoltatori di Cuore Denari 4 consigli per migliorare il metodo di studio utilizzando le mappe mentali. Siamo pronti per prendere appunti. Partiamo. Per chi non riesce a memorizzare, ecco, al campione di memoria. Ecco. Iniziare ad approfondire le tecniche di memoria, perché ci sono delle tecniche che permettono di immagazzinare informazioni alla velocità della luce. All'ultimo campionato ho memorizzato un numero lungo oltre 1000 cifre, però se uno non conosce il metodo è chiaro che con la ripetizione non va avanti. La prima cosa, ragionate per immagini, la mente ragiona per immagini e create delle associazioni, questo è proprio l'ABC che posso dire nel tempo che ho. Per chi va nel pallone, così si dice, quando deve svolgere un compito scritto, il compito in classe, sapeva tutto, poi il compito in classe, un po' la paura, il timore, eccetera, pum, certo, va in tilt. Certo. Modificare l'esperienza, nel senso che affrontare quell'esperienza con un altro tipo di approccio. Agli attori teatrali, quando hanno paura del giudizio, viene detto: immaginate le prime 5 file in pigiama. E allo stesso modo immaginate di scrivere una lettera ad una persona cara, in modo da vivere emozioni completamente diverse mantenendo la situazione ideale. Questo è giusto un modo per attenuare l'emotività. Per chi passa tanto tempo a studiare ma alla fine ottiene scarsi risultati, imparare che cosa sono le mappe mentali e come funzionano, perché il problema è proprio nel metodo. L'esempio che faccio di solito è quello di uno che vuole costruire un sentiero su un prato a forza di passarci a piedi, deve andare avanti e indietro tantissime volte e dopo un po' l'erba ricresce se non ci passa. Usando una ruspa è tutta un'altra cosa, e quindi andare ad approfondire i metodi, ormai ci sono libri, internet, però non si può prescindere. Tra l'altro libri, uno di questi lo ricordiamo, è Metti il turbo alla tua mente con le mappe mentali, è proprio di Gribaudo Editore, e come studiare è un gioco da ragazzi, quindi tu lo racconti, poi magari in questi giorni proviamoci, ti chiediamo se metti qualche esempio anche sul nostro profilo Facebook, facciamo lavorare anche te insieme ad Alberto. Non so se qua riesci a rispondermi, ma a chi proprio studiare non piace? Oh, anche lì cambiare l'esperienza, trovare qualcosa che la possa rendere piacevole. È un po' come, facendo un esempio, quando il bambino non vuole fare il bagno, gli si dice andiamo a fare il bagnetto a Locchetta, andiamo nello stagno, e uno lo infila nella vasca e alla fine non ne vuole più uscire. Allo stesso modo, riuscire a creare delle situazioni tale per cui lo studio diventi piacevole. La prima cosa però è iniziare ad ottenere risultato, perché la mancanza di risultato è quello che ci fa associare un'emozione negativa allo studio. Quando uno si impegna tanto e dedica tanto tempo ma non vede risultato, è chiaro che subentra la demotivazione. Infatti questo viene ripreso, il tuo concetto viene ripreso dal commento di un ascoltatore che ci scrive: la vera domanda per alcuni ragazzi è: vanno male perché non si impegnano perché vanno male? Sembra una banalità, ma non è così, e noi è lo giriamo. Prima l'uovo la gallina. Certo. Grazie a Matteo Salvo per essere stato con noi. Ricordo i titoli dei suoi libri: Metti il turbo alla tua mente con le mappe mentali e Studiare un gioco da ragazze. Grazie ad Alberto Pellai, Girl Revolution, è un successo, un grande successo, a vostra disposizione sulla pagina di Facebook. Buona pagella a tutti, e adesso ci tocca studiare. Chissà davvero come suggerivi tu prima, Nicoletta, se sarà il caso anche di chiedere al nostro ospite, che fra un po' andiamo a presentare, se anche gli scossoni dei mercati finanziari vanno affrontati non solo con coraggio ma anche con un po' di metodo. Allora, da che cosa partiremo oggi? Intanto non ci dobbiamo lasciar confondere dal fatto, visto che la sorpresa è sempre dietro l'angolo, che i mercati sono a quanto pare un pochino più tranquilli in questi giorni. Ieri Wall Street ha chiuso positivamente per la terza seduta consecutiva, praticamente tre sedute positive consecutive non si sono mai viste dall'inizio dell'anno, per cui pensa un Fantastico. Po' che bella sorpresa che ci hanno fatto ieri i mercati americani. Pare che gli investitori cerchino di analizzare un po' più lucidamente i temi del momento, magari hanno anche voglia di ripartirle, ma lo scenario di fondo non è cambiato, per cui cosa c'è dietro anche a questo atteggiamento positivo di questi giorni? L'unica novità di rilievo è l'accordo fra Arabia e Russia, a cui dato la sua apertura e il suo appoggio, a sorpresa anche l'Iran, per congelare il prezzo del petrolio, al momento per congelare i tetti produttivi sui livelli di gennaio. Partiamo da qui per lo spazio del giovedì con la nostra scuola di risparmio ed investimenti. Investire informati. Parleremo dunque di mercati azionari, ma anche di mercati obbligazionari, di tassi di interesse, di cine dintorni, delle iniziative imminenti della Banca Centrale Europea, del nuovo spettro, attenzione, che si aggira, del potenziale ritorno in recessione appunto dell'economia americana, del Giappone che sperimenta i tassi negativi. Chissà se ce la facciamo a fare tutto. Lo faremo con metodo, con Lorenzo Alfieri, Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Ben ritrovato, Alfieri, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Affrontare i mercati lo si fa anche con metodo, Alfieri? Beh, direi che anzi, la volatilità che abbiamo visto negli ultimi giorni ci hanno insegnato che il metodo è l'unico modo per cercare di poter navigare in mari tempestosi attraverso, diciamo, una lucidità di fondo e una saldezza di fondo che ovviamente a volte viene persa quando ci sono questi momenti di profonda crisi. Esatto, proprio anche di volatilità parleremo nel corso della trasmissione, perché è un mercato estremamente volatile. Quando un giorno guadagna il 3-4% il giorno dopo riperde tutto, quindi se il mercato fa più 0,1 il giorno dopo meno 0,1 non si può definire, se lo fa ripetutamente, mercato volatile. Il mercato è volatile quando appunto le variazioni percentuali in positivo in negativo sono molto accentuate, ma ci arriveremo per capire anche come, con che strumenti si affronta una circostanza di questo tipo. Però 800 24 00 24, intanto, per darvi l'opportunità di intervenire in diretta sulle curiosità del momento, sui temi finanziari del momento. Dottor Alfieri, allora, intanto, voi dall'inizio di gennaio ad oggi come avete affrontato il mercato? Che metodo vi siete dati? Con scuda del metto oppure vi siete messi tranquilli in attesa che tutto passasse? Che posizioni avete preso? Ma direi nell'uno e nell'altro, forse tutte e due, nel senso che non ci siamo messi tranquilli perché ovviamente in fasi così volatili tranquillità non ce ne poteva essere, ma tutto sommato il nostro metodo è stato quello di aver guardato se la costruzione del nostro portafoglio prima di questa crisi fosse sbagliato da qualche punto di vista. In effetti, se vogliamo ben vedere, nulla è cambiato di concreto, diciamo, dalla seconda parte del 2015 in questa prima fase del 2016. I punti di riferimento rimangono quella: gli Stati Uniti crescono non in modo tumultuoso, ma crescono. La Cina cresce magari non in modo molto vigoroso, ma continua a crescere, e cresce anche l'Europa. Le politiche monetarie sono sempre espansive, quindi tutto sommato l'impianto della nostra asset allocation non è stata modificata. Anche il petrolio ha mantenuto più o meno la stessa tendenza ribassista che si era manifestata nella seconda parte dello scorso anno. Come avete giudicato questa iniziativa di questi ultimi due giorni dei paesi produttori che hanno detto, beh, forse è ora di metterci una pezza, quantomeno congeliamo i livelli produttivi senza prendere una decisione strutturale di revisione appunto dei tetti, che dovrebbe essere presa in tutto il consesso appunto dell'OPEC? E però già questa mossa congiunta fra Russia e Arabia, a cui ha dato il suo appoggio, che era molto importante anche l'Iran, ha avuto questo effetto di fermare il prezzo del petrolio e adesso riportarlo un pochino verso l'alto. Siamo di nuovo ben al di sopra dei $30 al barile, nel momento in cui c'era invece il pericolo che addirittura si tornasse a scendere in maniera pesante, qualcuno vedeva anche i $20. Allora, questo tema quanto è rilevante in questo momento? Allora, è un tema che è diventato rilevante, direi in modo artificioso. Mi spiego. Nella storia, almeno dal 75 a oggi, non si è mai verificato che una recessione fosse innescata perché il prezzo del petrolio scende, ma esattamente per il motivo opposto. Quindi questa forte correlazione che abbiamo avuto tra discesa del petrolio, discesa dei mercati azionari per un timore di recessione non è mai avvenuta prima, e poco giustifica evidentemente l'attuale crisi del mercato legata al petrolio. Quello che è avvenuto in questi giorni, secondo noi, ha fatto prendere coscienza forse ai mercati che l'attuale ribasso del petrolio è legato a solo un fattore, che c'è troppa offerta, non a poca domanda. Quindi se ci fosse poca domanda, evidentemente siamo di fronte a dei sintomi di recessione. La verità è che c'è molta offerta, troppa offerta, e sappiamo che c'è un'offerta poco allineata, da cui ovviamente le discussioni a cui facevi riferimento. Gli squilibri anche, certo. Non ci dimentichiamo che ad esempio negli Stati Uniti la crescita della domanda di petrolio è di circa 1,5 all'anno, quindi una domanda che rimane forte, sostenuta, ma ahimè in questo momento c'è troppa offerta. 1,5 di che cosa, per chiarirlo ai nostri ascoltatori? 1,5 di crescita all'anno, dicendo. 1,5%, cioè vuol dire sostanzialmente che non è una domanda in rallentamento, ma è in marginale crescita. Questo solo a significare che i consumi di petrolio nell'economia principale più importante del mondo, cioè l'America, continuano a crescere. Quindi non c'è sicuramente una rarefazione della domanda di petrolio che potrebbe, diciamo, far temere un rallentamento almeno dell'economia americana. Allora, visto che me l'ha introdotto, l'argomento proseguo su questa strada, sulla scia proprio statunitense, perché invece c'è chi la pensa in maniera diversa da lei e ipotizza già una possibilità che quest'anno possa essere un anno difficile per gli Stati Uniti. Ci sono alcuni indicatori che dicono che in realtà l'economia a stelle e strisce abbia questa tendenza al rallentamento. Alcuni indicatori manifatturieri appunto lo hanno stabilito nei giorni scorsi. Invece, se andiamo a guardare la disoccupazione americana, pensate che è meno della metà della nostra, è al 4,9%, livello che se ce l'avessimo qua saremmo praticamente tutti ben felici, avremmo ripreso ben a spendere e non avremo sempre iniziative di sostegno anche al reddito, i vari bonus eccetera, perché è il mercato del lavoro che è molto importante. Quindi 4,9% la disoccupazione americana. E quindi le chiedo, Alfieri, che consistenza hanno le preoccupazioni di chi invece ipotizza una possibilità che gli Stati Uniti ritornino in recessione in questo 2016? Che cosa dobbiamo realmente temere se anche la Banca Centrale Americana si dice pronta a fermare gli aumenti di tassi di interesse che ha ricominciato a fare a dicembre? Ma noi al momento non paventiamo assolutamente una recessione. Guardiamo al prodotto interno lordo americano, che è composto, vi ricordo, dal 70% dei consumi. I consumi interni restano molto vigorosi. Le paghe medie orarie dell'impiegato americano continuano a crescere intorno al 2, 2,5, non tantissimo, ma neppure poco. Giustamente si è fatto riferimento alla disoccupazione. L'economia americana sta circa creando 200-250 mila posti al mese. Mm-hmm. in un'economia che ha la disoccupazione è sotto il 5%. È chiaro che anche questo dato, quello dei nuovi posti di lavoro mensili, probabilmente rallenterà. Ma perché? Perché è un'economia che sta andando, non dico verso la piena occupazione, ma un'occupazione molto importante. È un'economia che non può continuare a far produrre illimitatamente posti di lavoro. Tornando quindi alla considerazione iniziale, no, noi non pensiamo che l'economia americana stia andando in recessione. C'è un cambiamento, questo è vero, cioè il settore manifatturiero americano sta rallentando, ma il settore manifatturiero americano pesa oggi intorno al 12% del prodotto interno lordo. Qualche anno fa pesava circa il 25%. Cosa significa? Che le industrie, grosse industrie americane, stanno inevitabilmente riorganizzando e probabilmente rallentando, ma c'è il settore dei servizi che sta diventando un traino importante. Quindi pensiamo che tutto sommato i driver, i motori per così dire, dell'economia americana non si stiano fermando, si stiano solo trasformando, mutando, ma l'economia americana potrà continuare a crescere intorno al 2%, che non è una crescita mirabolante, ma comunque è una crescita molto solida. È una crescita all'insegna della stabilità, che è quella appunto che arriva proprio dagli Stati Uniti. E dunque abbiamo capito che sarà un anno assolutamente interessante da seguire anche per la campagna per le presidenziali e per questo dibattito che sta maturando fra chi ipotizza una possibile ricaduta in recessione degli Stati Uniti, invece chi ritiene, come Lorenzo Alfieri, che c'è una situazione di assoluta stabilità americana e che non lascia spazio a questa ipotesi appunto di rallentamento economico. In tutto questo invece abbiamo adesso, sì, direi che è proprio ora, anzi l'abbiamo proprio ben superata, sono le 11.31, devo raccontarvi cosa succede in borsa stamattina. Cuore e denari. Bisogna avere la forza di dire che nella pancia delle banche, di molte realtà del credito europeo, c'è un eccesso di derivati, c'è un eccesso di titoli tossici che a mio giudizio deve portare con chiarezza l'Italia a prendere una posizione. Noi metteremo il veto su qualsiasi tentativo che vuole andare a dare un tetto alla presenza di titoli di Stato nel portafoglio delle banche e saremo su questo senza alcuna cedimento di una coerenza e di una forza esemplare. Sono dichiarazioni che certamente faranno ancora parlare nei prossimi giorni, quelle che ha rilasciato Matteo Renzi riferendo in Parlamento sul Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Una dichiarazione che è andata ben oltre i temi importanti all'ordine del giorno di questo consesso europeo, Brexit e immigrazione, ha lanciato praticamente una nuova sfida alla Germania, ci mancava pure questa, sul tema delle banche. C'è appunto il negoziato sull'ipotesi di garanzia comune sui depositi bancari che è iniziato solo da qualche settimana, in questo momento è in una fase tecnica e nel corso appunto di questo negoziato si è tornato a parlare anche della questione di quanti titoli di Stato hanno in pancia le banche. Che non solo in Italia ma anche nelle altre economie. Quanto ci deve appassionare, Lorenzo Alfieri, questo argomento? Beh, effettivamente quando lo spread era oltre 500 punti base ci appassionava abbastanza perché era molto importante che in quel momento le banche tenessero nella loro pancia i titoli italiani. È sicuramente l'argomento che viene posto oggi sul tavolo è ovviamente alla base anche della forte volatilità che abbiamo riscontrato in Europa e soprattutto in paesi come l'Italia, ma non solo, non ci dimentichiamo anche le grosse correzioni che sono avvenute per le banche francesi e tedesche. Il tema ovviamente legato alla solidità del sistema bancario e quindi finanziario europeo è necessario ovviamente ripristinare una credibilità molto forte sul sistema perché è al sistema bancario e finanziario che si chiede ovviamente lo sforzo per un rilancio in Europa. L'Europa, come sappiamo, sta crescendo a tassi poco superiori all'1%, dicevamo prima gli Stati Uniti dove sì. Si cresce a cifra praticamente doppia, è chiaro che manca quindi quella forza, quel motore che negli Stati Uniti c'è e in Europa stenta a decollare, che è proprio ovviamente il sistema bancario. Infatti, che inneschi ovviamente una crescita più convinta. Probabilmente è chiaro che la soluzione sarà una negoziazione tra varie parti che hanno ovviamente visto e utilizzato il proprio sistema bancario interno in modo diverso, ma è necessario comunque una visione comune se si vuole ovviamente che l'Europa tutta intera e non a tratti e a pezzi possa ripartire. Allora, intanto ribadendo ai nostri ascoltatori che possono intervenire in diretta all'800 24 00 24, fra un po' vi faremo il domandone per testare se avete seguito la prima parte del programma. È un domandone che riguarderà gli Stati Uniti, facile, per cui non potete sbagliare. Le leggo, Lorenzo Alfieri, intanto che aspettiamo anche le domande degli ascoltatori sui temi finanziari del momento, se hanno delle curiosità. E peraltro è pronta un'ascoltatrice, Maria dall'Aquila, ma anche Stefano da Padova. Le leggo delle dichiarazioni del presidente dell'Eurogruppo al Parlamento europeo, Dijsselbloem. Ovviamente l'avrò pronunciato malissimo, ma qua siamo sempre in crisi di fronte a questo nome. La situazione delle banche della zona euro è notevolmente migliore, ma soprattutto Dijsselbloem ha detto che praticamente sul tema anche del trovare una soluzione nel negoziato sull'ipotesi appunto di garanzia comune nell'ambito bancario, che è una questione molto complessa che io sintetizzo in maniera così banale, ha detto: resta molto lavoro da fare, il processo di ritorno delle banche al finanziamento dell'economia sarà graduale. Ha detto anche: non accetto la psicologia della crisi, la psicologia della paura. Perché ho voluto leggere questa affermazione di Dijsselbloem? Perché da martedì prossimo con il Sole 24 Ore parte il corso di educazione finanziaria, un volume a settimana ogni martedì, che noi con Cuore Denari accompagneremo con qualche trasmissione. E il primo argomento che sarà trattato da questa pubblicazione è proprio gestire la paura quando si scatena, naturalmente certo. È inevitabile, perché abbiamo visto quello che è successo sui mercati finanziari, per cui in qualche momento ci siamo di nuovo spaventati, un po' come tremano, è successo, esatto, come è successo in diversi frangenti in questi ultimi anni di crisi. Alfieri, bisogna anche non solo gestire la volatilità, qualche volta si trasforma anche in paura. Sì, direi corretto. La paura si può vincere solo in un modo, attraverso un'informazione corretta, un'informazione molto più approfondita dei mercati, delle dinamiche, e anche ovviamente una scelta più consapevole di quello che si può o non si può comprare. Allora, le faccio sentire un paio di ascoltatori. Parto da Maria dall'Aquila, perché si è messa in collegamento con noi per prima, ma poi volevo sentire anche la considerazione di Stefano da Padova, perché a prescindere dalla paura che qualcuno ha di un ritorno in recessione dell'economia americana, in realtà un altro pericolo grande che qualcuno ha commentato più volte in quest'ultimo periodo è quello della stabilità della zona euro, e magari adesso ci torniamo anche grazie all'ascoltatore. Maria però parte, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maria, eccoci a lei. Senta, io vorrei sapere qualcosa su questo fondo. Un fondo di 10.000 euro non è molto, però mi è andato indietro ho perduto quasi 1.300 euro da un anno, fatta ad aprile, cioè ancora non è un anno. Si chiama Fidelity Fund. Allora, adesso Maria, è intanto un fondo di una società concorrente a quella di JP Morgan, non possiamo commentare le modalità di gestione di una casa concorrente. È però una società internazionale molto importante, molto grande, sono degli professionisti eccezionali. Il fondo, Maria, ritengo, se ha perso così, che sarà, abbastanza azionario, però magari Maria non ce lo può dire, ma a prescindere da questo, ha subito quello che hanno subito un po' tutti, Alfieri, immagino. Quindi forse Maria è un po' presto per fare un bilancio, neanche un anno dalla sottoscrizione. Diamo intanto questa prima considerazione. Sì, assolutamente. Direi che l'evidenza della crisi, della volatilità delle ultime settimane ci insegna che inevitabilmente bisogna saper guardare i propri investimenti in un'ottica di programmazione. Soprattutto il fondo di investimento, non c'è niente da fare. Il fondo di investimento è ovviamente uno strumento di medio-lungo termine. Capisco che ovviamente è un concetto difficile da poter accettare, ma in effetti le valutazioni sulla qualità del gestore e di un fondo va fatto almeno su un arco temporale di 3-5 anni. Quindi in questo arco generalmente è possibile che scenari positivi o negativi si stemperino, e dall'altra parte è possibile, certo, quindi fare una valutazione molto più attenta e razionale sulla qualità ovviamente del fondo che si è andato a acquistare. Poi Maria, se ha voglia, se ha tempo, se ha l'opportunità di farlo, se ci vuole scrivere, magari ci dia qualche dettaglio in più sulle caratteristiche di questo fondo e glielo facciamo analizzare. Abbiamo, come al solito, un buon pool di consulenti che a microfoni spenti nel pomeriggio si mette al lavoro per noi per fare un'analisi un pochino più precisa per i nostri ascoltatori. Non esagerate con le richieste, la risposta che possiamo dare è una, perché poi ci sono molti ascoltatori che dopo una risposta che non è allora. Quella poi è una chiacchierata che dovete fare con il vostro consulente finanziario e fare una condivisione soprattutto al fieri di obiettivi di investimento. Facciamo sempre molta fatica a far passare questa modalità di approccio non ai mercati finanziari ma proprio al tema risparmio. Sì, sicuramente è uno dei problemi principali, il fatto del panico che dicevamo prima ovviamente coglie chi non ha fatto una corretta programmazione temporale, una pianificazione, come si suol dire, finanziaria. La pianificazione finanziaria non può essere ovviamente modificata da eventi estemporanei, va avanti negli anni e a questo si deve fare riferimento. Certo. Se manca il faro della pianificazione finanziaria è chiaro che la tempesta adombra ovviamente qualsiasi punto di riferimento. Per cui concordo assolutamente con questa valutazione, è necessario prima pianificare i propri investimenti oltre che alle proprie spese e su questo tipo di pianificazione crederci prima di tutti l'investitore, perché se no basta una piccola tempesta per sgretolare tutto. Agitarci. Allora, io lo so che adesso è il traffico, però voglio fare il domandone anche. Dai, così almeno diamo più tempo per rispondere. Rischia tutto, mettetevi le cuffie, noi ce l'abbiamo già. Guardate, cioè più facile di così oggi non la potevo fare, basta aprire un giornale degli ultimi giorni e trovate queste informazioni ovunque. A che tasso è in questo momento la disoccupazione americana? È basso, bassissimo, invidiabile. Se volete guadagnarvi un nostro libro, 800 24 00 24, il numero verde, accettiamo solo le risposte tramite telefonata. Per cui non barate, adesso intanto andiamo a sentire il traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Cuore e Denari. Niente, la regia mi suggerisce che devo rifare il domandone, così lo ribadiamo ai nostri ascoltatori che vogliono intervenire in diretta. Vediamo se siete stati attenti alla prima parte del programma in cui abbiamo parlato un po' di economia americana. Qualcuno ipotizza addirittura che stia andando in crisi, ma con questo livello della disoccupazione, ma se è crisi quella, allora avete capito a che tasso è la disoccupazione americana? Scrivetecelo all'800 24 0024, apriremo la nostra libreria. Allora, abbiamo un altro ascoltatore che voleva intervenire in diretta, che abbiamo messo lì ad attendere, Stefano da Padova. Buongiorno. Buongiorno. Allora, fermo restando che il mondo è davvero globalizzato e che la forza del dollaro è da sempre, negli ultimi decenni, molto grande, vorrei sapere nel dibattito tra euroscettici e eurottimisti chi potrebbe prevalere, perché lì ho la sensazione di essere seduto su un vulcano e essere a casa mia in pericolo con la mia moneta. Quindi sono contento della disoccupazione in calo negli Stati Uniti, ma mi preme sapere della sicurezza della mia moneta, ecco. Grazie Stefano. Allora guardi, come dire, Stefano dice: ho l'impressione di essere seduto quasi su una polveriera. Anche grandi gestori professionali. La settimana scorsa avevamo ospite nella sua stessa sedia al Fieri Giuseppe Marzi, amministratore delegato di Schroders Italy Sim, che ha espresso tutte le preoccupazioni sulla tenuta appunto dell'Eurozona, che possiamo definire un po' il gigante con i piedi di argilla, no? Il continente europeo sta vivendo questa difficile costruzione dell'unione bancaria, c'è il tema del bail-in, sono stati questi i banchi di prova durissimi in questa prima parte del 2016, c'è la difficoltà dei governi a trovare delle convergenze su tante altre questioni che provoca spesso delle fughe degli investitori dal mercato europeo, dalle banche su tutto. Che ragioni ha Stefano di preoccuparsi? Lei è un euroscettico o un euroottimista? Ma a parte che appunto sono ottimista in generale, quindi sono un euro ottimista, è ovvio che però le preoccupazioni poste dall'ascoltatore sono vere, sono concrete. Non ci dimentichiamo adesso il dibattito che c'è sulla Brexit, nasce proprio dalla preoccupazione di perdere un pezzo importantissimo dello scenario europeo, seduto ancora al tavolo, che è l'Inghilterra, che potrebbe uscire. Io direi che è ovviamente in questo momento, in questa fase, prematuro per essere negativi o estremamente negativi. Lo scenario è in forte evoluzione. Credo che la testimonianza anche della recente crisi sui mercati faccia capire a tutti l'importanza di essere coesi anche in Europa. Ormai lo scenario, giustamente, è il mondo, come è stato detto dall'ascoltatore, è globale, e quindi una Europa disgregata avrebbe solo da perderci rispetto ai giganti americani, cinesi, asiatici, che stanno ovviamente riunendosi in gruppi e aree regionali sempre più forti e sempre più predominanti. Quindi noi riteniamo che alla fine potrà prevalere uno scenario positivo. Allora, chi squilla il nostro telefono, Nicoletta? Allora, dimmi tu dove preferisci andare. Guarda, Deborina, vedo qua un bel centro Italia ben rappresentato, direi che possiamo andare un po' più a nord. Dai, Mauro, buongiorno. Mauro da Modena, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Io volevo fare questa domanda al dottor Alfieri. Chiedevo questo: visto quello che è capitato sui mercati negli ultimi mesi, abbiamo visto una volatilità che si è accentuata in maniera veramente spaventosa. Sì. Io, lavorando finanziariamente per una banca, costruisco portafogli per i nostri clienti. E chiedevo, non è che lei adesso in banca, Mauro, si sta facendo questa bella telefonata? No, perché sarebbe una bella soddisfazione se chiede suggerimento a noi. Guarda che però anche un direttore di filiale avrebbe il piacere di colloquiare con il nostro ospite. Ce l'ha scritto al 349-238-6666. Li metteremo in guarda che carramba che facciamo noi. Quindi siamo tutti qua. Mi scusi se l'ho interrotta. No, assolutamente. Un po'. Quindi chiedevo questo: noi costruiamo portafogli anche in base ai dati passati, quindi cerchiamo di rivolgerci più che altro dei portafogli strategici, che quindi debbano dare delle soddisfazioni nel corso del tempo, dando un po' meno valore forse ai portafogli tattici. Sì. Io noto ultimamente che forse anche il lavoro di tutte queste banche centrali, tutta la liquidità che è stata iniettata, ha portato veramente a una volatilità molto più forte che secondo il mio parere sta facendo andare un po' fuori moda i portafogli strategici. La mia domanda, Mauro, era questa, sì, quindi meglio l'uno o l'altro? Allora, Mauro, intanto la ringrazio e faccio spiegare anche a Lorenzo Alfieri se ci può definire a beneficio dei nostri ascoltatori che cosa si intende per investimento strategico, investimento tattico, portafoglio strategico, portafoglio tattico. Che cosa significa nel vostro gergo? Sì, vorrei semplificare. Chiaramente creare dei portafogli che abbiano un respiro di medio-lungo termine o dei portafogli strategico, un portafoglio tattico che invece sfrutta e utilizza, diciamo, il breve termine o comunque segnali di breve termine per poter implementare il portafoglio. Direi che l'ascoltatore ha assolutamente centrato uno dei problemi principali di questo momento. Lo stiamo dicendo da qualche tempo, lo dicevamo alla fine del 2014, l'abbiamo detto nel 2015, lo ripetiamo nel 2016. I mercati presenteranno una caratterizzazione di più alta volatilità, con ovviamente le conseguenze che debbono essere prese nel gestire un portafoglio con una volatilità più alta. Avere volatilità più alta nei portafogli significa ovviamente dare un buon assist a chi si occupa di tattica finanziaria, forse. Sì, però non bisogna dimenticare che comunque è pur sempre, come dicevo all'inizio, molto importante strutturare molto bene il portafoglio sui fondamentali. Non bisogna perdere di vista il cosiddetto faro di riferimento, per cui ci può essere più volatilità, ma non bisogna dimenticare che rimangono i fondamentali a cui bisogna guardare. Non bisogna solo cercare il tatticismo, perché quando c'è alta volatilità, il cosiddetto entry point all'inglese, cioè il momento in cui è corretto entrare, non lo si prende mai. Con la volatilità molto alta è impossibile individuare il momento migliore per entrare. Quindi questo momento di mercato valorizza proprio l'approccio strategico. Valorizza da una parte l'approccio strategico ed eventualmente entrate sul mercato in momenti successivi. Quello che generalmente viene definito nel gergo comune il cosiddetto PAC, cioè entro su un tema ma magari non entrando nello stesso momento e scegliendo momenti di entrata successivi. È l'unico modo per ovviamente arginare un mercato, come correttamente è stato evidenziato, infatti, dove la volatilità sarà, non vorrei dire la padrona, ma quasi. Allora, stiamo andando verso la chiusura. Ricordo ancora il domandone: a che livello è la disoccupazione americana? Avete ancora un minuto e mezzo di tempo per rispondere. Intanto sento Fabio da Pescara, che penso abbia più o meno la domanda simile a quella di Matteo da Genova, che pure si era candidato ad intervenire. Il tema è titoli di Stato. Fabio, velocissimo, grazie. Buongiorno. Quando i tassi di interesse scendevano, era conveniente acquistare i BTP, perché sì, il loro valore saliva sul mercato secondario. Oggi invece che i tassi di interesse sono a zero e quindi non possono che salire. Dove si cerca il rendimento, Fabio? Quale strumento è opportuno adottare? Fabio, grazie, devo salutarla. Alfieri, una domanda che penso che ogni giorno qualcuno le fa. Sì, no, ovviamente il mondo obbligazionario ha i tassi molto bassi, quindi non c'è sicuramente una finestra di opportunità. Ricordiamo che chi vuole investire inevitabilmente in obbligazioni, forse è meglio che lo faccia attraverso fondi obbligazionari che vengono gestiti da professionisti. Infatti, in questo momento solo il professionista può individuare dove ci sono titoli di Stato a rendimenti azzerati, ma anche qualche titolo di Stato con un po' più alto rendimento, perché magari sono titoli di Stato dei paesi con condizioni politiche ed economiche molto diverse da quelle che abbiamo qua. Matteo da Genova, disoccupazione americana quant'è, veloce? Sì, buongiorno, è il 4,9%. Bravo, bravo Matteo, le regaliamo un sacco di libri, no, uno o due al massimo. Alfieri, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, non si annoia giornata di certo con i mercati in questo momento. Noi torniamo domani alle 10:30, vi aspettiamo. Buona giornata.